Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di generazioni e marketing. Come cambiano le previsioni sui nuovi target di consumo? Per la seconda puntata del viaggio nella spesa quotidiana in tempi di crisi parliamo poi dei discount e per il focus sui trend di consumi contro. Facciamo cioè il punto sui movimenti di consumo critico. Prima però ci sono le notizie e curiosità della settimana. Stare seduti in assoluto silenzio bevendo un cocktail e ascoltando musica d'atmosfera. Sono i caffè muti, l'ultima tendenza in fatto di locali notturni a San Pietroburgo. Nati nel 2002 a New York, impongono il divieto di conversare anche sottovoce. Per ordinare, bisogna scrivere ciò che si desidera su appositi foglietti. Al via la stagione del novello. Le bottiglie di novello Made in Italy, 17 milioni circa, quest'anno arrivano sul mercato con ben 2 settimane di anticipo rispetto al rivale, il Beaujolais Nouveau francese. I prezzi variano dai 3 agli 8 euro a bottiglia. La crisi non ferma, anzi spinge, la crescita del commercio elettronico. Nel 2008 in Italia gli acquisti online supereranno i 6 miliardi di euro, il 20% in più rispetto al 2007. La quota corrisponde all'1% del totale delle vendite retail. Lo rileva la ricerca presentata dall'osservatorio Netcom del Politecnico di Milano. Nokia si affida alla rete e ai designer di tutto il mondo per progettare le cuffie del futuro. Gli auricolari più votati entreranno nel catalogo 2009. Muschio sui muri al posto dello spray. Declinazione ecologista dell'arte di strada, Mossenger, da Moss muschio e Messenger messaggero, è il progetto inglese che lascia sui muri delle città lettere ritagliate nel muschio e poi fatte aderire alle pareti. La più famosa nave da crociera al mondo, la Queen Elizabeth II, va in pensione. 40 anni di onorata carriera alle spalle, come approdo per il suo ultimo viaggio ha scelto Dubai, dove diventerà un hotel. La borsa della spesa. Quali saranno i bisogni, le domande e i desideri dei consumatori nei prossimi 20 anni? Due economisti americani, Neil Howe e William Strauss, hanno messo a punto uno schema che sulla base dei precedenti storici permette di prevedere come le generazioni di oggi agiranno nei prossimi decenni e come si orienteranno dunque le loro scelte di acquisto. Ecco che cosa prevedono. Le generazioni che tra 20 anni costituiranno ancora una forza vitale sono 3: i boomer, la generazione X e i millennial. I loro orientamenti e comportamenti avranno effetti profondi sull'economia, sui luoghi di lavoro e sulle istituzioni in genere. I boomer, i sessantenni di oggi, figli del baby boom del dopoguerra, stanno impostando la loro vecchiaia all'insegna delle cure olistiche e naturali, un settore destinato a crescere sempre di più dunque, tanto che alcuni ospedali stanno già aprendo reparti sulle medicine alternative. Quelli della generazione X, gli adolescenti degli anni 90, oggi quarantenni, figli di un periodo di debolezza dei sistemi scolastici e di matrimoni in declino, saranno sempre più alienati, disaffezionati e pragmatici. Rappresentano la più importante generazione di imprenditori della storia americana e continueranno a spingere innovazione, efficienza e personalizzazione di massa di prodotti e servizi. In contrasto con le due generazioni precedenti, i millennial, i nostri ventenni, una volta adulti, propenderanno per il lavoro di gruppo, forti legami familiari, sicurezza del posto di lavoro e cultura collettiva. Il livello senza precedenti della loro cultura digitale e il loro talento organizzativo creeranno una potente forza politica. Il marketing generazionale rappresenta una delle più promettenti nuove frontiere dell'impresa, ci dice il sociologo dei consumi Gianpaolo Fabris. Effettivamente la generazione è un predittore di comportamenti futuri di grande importanza. Se vogliamo sapere come sarà una persona di 60 anni in futuro, non dobbiamo guardare i sessantenni di oggi, ma magari le persone che hanno 40 anni e con tutta probabilità conserveranno molti dei loro comportamenti, atteggiamenti, valori anche negli anni a venire. È un'area, questa, credo, tutta da esplorare. Sembrerebbe di reintrodurre in qualche modo dalla finestra la classificazione demografica per età, che si è fatta uscire invece dalla porta principale. In realtà, mentre l'età è un fatto biologico, anagrafico, la generazione è un fatto culturale, cioè sono persone che condividono una propria visione del mondo della vita, certi consumi che sono stati plasmati dagli stessi eventi. Se oggi andiamo a vedere i sessantenni di oggi, sono quelli che sono stati l'espressione della cultura del 68 e hanno mantenuto i jeans, hanno mantenuto un sistema di letture, hanno talvolta qualche comportamento più trasgressivo, rivendicano ancora una vita sessuale, insomma hanno mantenuto di quegli anni delle caratteristiche che sono molto diverse allo stereotipo e all'immagine che noi abbiamo del sessantenne. Quello che è certo è che oggi gli aggregati sociali utili a definire le strategie di impresa sono molto più difficili da definire. È una società che sembrava rivolgersi verso un disperato solipsismo, no? L'individualismo, l'egoismo, una società dove l'individuo era soltanto un volto nella folla. Questa era una delle preoccupazioni, oppure una delle previsioni che veniva portata avanti fino a un recente passato. In realtà stanno nascendo delle forme di aggregazione sociale molto diverse rispetto al passato, che non hanno le caratteristiche a cui eravamo adusi, il partito, il sindacato, il movimento politico, ma che nascono spontaneamente nel sociale o perché c'è questo imprinting generazionale, oppure attorno a certi aspetti totemici. Del resto, probabilmente il detonatore di tutto questo è stato il mondo web, è stato il 2.0, che ha all'improvviso portato all'attenzione di tutti questi mondi vitali, questi social network che stanno diventando i veri grandi protagonisti della socialità oggi. Vi segnaliamo che la teoria di Howe Strauss è una delle 100 grandi idee di management raccolte nel CD-ROM in edicola in questo periodo con il Sole 24 Ore, CD contenente una selezione di articoli pubblicati tra il 2007 e il 2008 da Harvard Business Review Italia, edizione italiana della rivista di management che fa capo alla prestigiosa Università Americana. Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli. Stiamo analizzando le nuove mete di acquisto per la spesa quotidiana in tempi di crisi. La scorsa settimana abbiamo parlato degli ambulanti, oggi è la volta dei discount. Il discount sta vivendo una nuova giovinezza. Questa tipologia di vendita è stata introdotta in Italia dalla tedesca Lidl nel 1992. Da quel momento sono proliferate le insegne e il numero di negozi, quasi fosse una moda fare discount. Oggi il numero di operatori si è ridotto e sono rimasti quelli che meglio di tutti hanno saputo interpretare i bisogni dei consumatori e la formula. I discount sono circa 3.800, sono distribuiti uniformemente sul territorio nazionale e hanno una quota dell'8,7% a valore sul totale dei consumi. Stanno intercettando la domanda di convenienza, anche se alcune volte la qualità non è francamente all'altezza. È una tipologia che per comodità possiamo dividere in hard e soft discount. Appartengono ai primi i negozi senza prodotti di grandi marche e sono più spartani e senza servizio. Viceversa, i soft discount hanno nel loro assortimento le grandi marche nazionali e alcuni servizi. Proprio per questo, e anche se non piacerà questo giudizio agli operatori, possiamo dire che la formula oggi si dimostra sempre più vicina alla logica dei supermercati. Si pensi che Penny ha addirittura lanciato un formato green. Fra tutti, comunque, si distingue Lidl, che ha saputo aggiornare i negozi senza smarcarsi troppo dalla sua matrice tedesca, almeno apparentemente. Infatti il discounter non è ad uso ospitare le grandi marche, ma preferisce farsi fare alcune categorie di prodotti dalle grandi multinazionali, come nel caso dei prodotti per la detergenza, suo punto debole storico, che sono congegnati dall'americana Procter & Gamble. Di più, ha inserito in assortimento alcuni prodotti che vengono dal mondo sostenibile del fair trade e da non molto tempo sta proponendo ai suoi clienti polizze assicurative, viaggi e anche energia. Ma Lidl si distingue dagli altri competitor per il suo sito. È possibile, accedendovi, seguire dei veri e propri corsi di cucina di noti cuochi. Con tutte queste attività, curiosamente, Lidl si è iscritto al club del low cost, l'unica nota stonata della sua filosofia, che dovrebbe sempre essere il discount. Mai più senza. È Obama mania anche nella moda, il fashion system americano rende omaggio al nuovo presidente con alcuni pezzi che sono già un cult. E quanto ci riferisce da New York Giulia Crivelli. Per molti mesi la moda è entrata nella campagna elettorale americana solo grazie alle aspiranti first ladies. Lo stile da Barbie stagionata di Cindy McCain, moglie del candidato repubblicano, si contrapponeva a quello di Michelle Obama, che da tempo ha scelto di indossare capi di Takun Panichkul, astro nascente della moda americana, che in Italia disegna una collezione per il marchio Hogan del gruppo Tod's. Ma nelle ultime settimane prima del voto l'attenzione si è spostata sul candidato democratico. A New York, capitale del fashion system americano, da tempo schierato per Obama, a partire dal direttore della locale Camera della Moda, Diane von Furstenberg, l'Obama mania ha contagiato tutti. Non esiste teenager, bianco, nero o ispanico che non indossi una delle spille con l'effigie del primo presidente afroamericano della storia degli Stati Uniti. Gap, uno dei più famosi marchi di casual wear, da settimane vende una serie di magliette pro-Obama personalizzabili. Chi le acquista riceve una serie tra 6 spille create ad hoc da altrettanti giovani graffittari della Grande Mela e può far incidere sulla t-shirt le ragioni che l'hanno spinto a votare Obama. Da Abercrombie & Fitch, dove ogni giorno c'è la fila per entrare, i commessi mezzi nudi, marchio di fabbrica del brand più desiderato del momento, da mercoledì sono tutti neri. I muscoli bianchi da qualche giorno sono fuori moda. Essere e avere. Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno a tutti. Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna, ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta questa seconda parte di Essere e Avere. Oggi parliamo di consumi contro, vogliamo cioè raccontare, fare una panoramica su tutti quei movimenti di consumo critico che propongono scelte di acquisto o di non acquisto, alternative, spesso di rottura, a volte anche radicali. Oggi comprare qualcosa è diventata in molti casi una scelta dai risvolti etici, ambientali, politici, tanto che si parla di consumatori o consumautori proprio per sottolineare il ruolo attivo, critico di chi acquista. È uno scenario molto complesso, in continua evoluzione, uno scenario dal quale non si può prescindere. Patrizia. È un dato che ci sia un nuovo modo di rapportarsi ai temi di natura sociale e ambientale che si sostanzia e trova espressione anche in un modo di consumare con nuovi connotati etici, che vuol dire sia fare acquisti ragionati che ridurre gli sprechi. Gruppi sempre più consistenti di persone stanno traducendo quella che era una sensibilità etica diffusa in comportamenti e azioni. Molto significative, soprattutto tra i segmenti avanzati, iniziative contro le eccesso nei consumi insostenibili e superflui, quelli riducibili. In molte città europee gruppi di ecoguerriglieri cosiddetti combattono le loro battaglie etico-ambientali approfittando della notte, per esempio per sgonfiare i pneumatici dei SUV. Si chiamano Degonflé in Francia, le Flagadas in Belgio e The Indians of the Concrete Jungle in Svezia. Ma questo contro gli onnipotenti e dissipanti fuoristrada non è l'unico movimento urbano, anche se molto interessante di questo tipo. Esistono gli sbullonatori contro i giganteschi manifesti pubblicitari nelle città, gli spegnitori di neon contro lo spreco energetico o ancora i riverniciatori di piste ciclabili. Pare che il 10% delle piste di Lione, per esempio, sia opera loro. Molto interessanti anche i movimenti contro l'invasione della comunicazione commerciale, che è un tema interpretato anche dall'arte, come nel caso di Hans Hacke, questo artista concettuale, come si definisce, socialmente critico, che tematizza l'appropriazione, la privatizzazione degli spazi pubblici da parte dei brand, come è successo a Berlino nella Potsdamer Platz con Chrysler e Sony. Un'invasione che riguarda soprattutto l'industria culturale e quindi c'è il tema della denuncia dell'inquinamento mentale nel quale viviamo, di cui si può diventare maggiormente consapevoli. Anche in questo caso con azioni ben precise, per esempio aderire allo sciopero nazionale televisivo che ogni anno viene indetto in autunno dal sindacato dei telespettatori promosso da esterni.org per riscoprire la città. Ci si presenta con il telecomando in quei giorni in un museo, in un cinema, in un bar, aderenti all'iniziativa, e si hanno sconti e agevolazioni interessanti. Oppure sperimentare la Mental Detox Week, la settimana di disintossicazione mentale, staccando alla lettera la spina dal cellulare, dal computer e da tutto quello che ha un cavo, lanciata da Adbusters.org, la fondazione e rivista canadese specializzata in subvertising, cioè nel sabotaggio della pubblicità. In vista del delirante tripudio di shopping delle incombenti festività, si può anche optare per niente regali, niente shopping, niente sensi di colpa, come proclama il movimento di resistenza al Natale www.christmasresistance.org. È uno degli eventi simbolo dei movimenti di consumo critico a livello internazionale, promosso tra gli altri da Adbusters, è il Buy Nothing Day, la giornata del non acquisto. Sentiamo di cosa si tratta. Una giornata senza aprire il portafogli. Niente caffè al bar, pieno di benzina, spesa al supermercato. Niente pizza e cinema, tantomeno vestiti, scarpe, telefonini. Nata in America nel 1992 e poi esportata in molti altri paesi, la giornata del non acquisto si celebra verso fine novembre, di norma l'ultimo sabato del mese. Negli Stati Uniti coincide con la vigilia del Thanksgiving Day, la giornata del ringraziamento, una delle date clou per lo shopping prenatalizio. Il Buy Nothing Day propone una moratoria di 24 ore sugli acquisti per dimostrare di non essere del tutto schiavi del consumismo. È una giornata per riflettere sulle abitudini di consumo e sulla possibilità di fare acquisti più ragionati, con una maggiore coscienza critica, nel rispetto dell'ambiente e di chi è meno fortunato. Patrizia, quanto tutti i movimenti e le azioni di consumo critico stanno contribuendo a modificare il sistema produttivo e le logiche di comunicazione dei prodotti? Ma quello che inizialmente sembrava un semplice escamotage di marketing, cioè differenziarsi per la produzione sostenibile, per i comportamenti comunicativi e organizzativi eticamente corretti, oggi si sta sempre più trasformando in un requisito indispensabile per le imprese. Perché diventano più frequenti i boicottaggi nei confronti delle imprese che non sono responsabili e verso l'ambiente, e verso i fornitori, i clienti. E in questo la rete, la blogosfera, i forum hanno contribuito enormemente a dare più possibilità ai consumatori per far emergere scandali e truffe. Pensiamo al cibo, alle contraffazioni e agli scandali di questo settore che hanno orientato nuove motivazioni nella scelta dei prodotti alimentari. Infatti dalle ultime ricerche si nota come cala la sensazione di piacere e di godimento associato al cibo e aumenta la preoccupazione sulla salubrità di quello che mangiamo. Cresce anche la domanda di protezione. Si vorrebbe che polizia, magistratura, agenzie specializzate, il governo stesso ci tutelassero di più, assumendo un ruolo più attivo in casi di bisogno. Pensiamo anche a film come Super Size Me di Spurlock sull'industria del fast food, che è diventato un grande caso cinematografico proprio perché diceva di un rischio che tutti percepiamo. Attivissimo per stare in tema di cibo nella causa alimentare Food Watch, movimento indipendente fondato da Thilo Bode con sede a Berlino, che fa di diffusione di informazioni sugli intrighi industriali, ma soprattutto promuove proteste collettive, che sono un modo, forse l'unico, potenziato dalla rete, come abbiamo detto, che amplifica i messaggi dei gruppi di protesta, di pressione, l'unico modo per parlare con i produttori, con i politici e sollecitarne una reazione. Una descrizione divertente del nuovo potere dei consumatori e della loro quasi sadica voglia di rivalsa sui produttori lo fa Chuck Palahniuk nel suo romanzo Ninna Nanna, dove Ostrica, un fanatico ambientalista, propone continuamente improbabili cause legali comuni, quasi preventive, contro aziende e marchi continuamente minacciati da annunci tipo: a tutti i proprietari di mobili imbottiti, attenzione, qualora dei ragni velenosi abbiano deposto le uova nei vostri mobili imbottiti, dice l'annuncio, sussistono gli estremi per intentare un'azione legale collettiva, e segue il numero di telefono, il suo. E a Iolo, vicino a Prato, per liberare dai sensi di colpa i forzati dello shopping, ha aperto un outlet in un convento. È il convento di Santa Maria del Rosario, gestito dalle suore domenicane. Vende di tutto, dall'abbigliamento alla marmellata, a scopo di solidarietà. Lo slogan è vestiti griffati a prezzi stracciati, sul modello in pratica dei charity shop inglesi, vende abiti nuovi e usati e reinveste gli utili in progetti di solidarietà. Per saperne di più abbiamo in collegamento la madre superiora, Suor Paola Collotto. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Da dove arrivano i vestiti che vendete? arrivano dalla gente comune che ci porta il sacchettino oppure arrivano anche dai fondi di negozio. Ci fa qualche esempio dei prodotti che vendete? Sono anche abiti firmati? Sì, perché la gente si disfa di tutto, anche degli abiti firmati. Noi vendiamo proprio di tutto, gli abiti, i giocattoli, le scarpe, le borse, cinture. E poi vendiamo anche piccoli gioielli, li chiamo così, fatti da una nostra suora che è rimasta per un incidente stradale sulla carrozzina. E lei fa di tutto, porta chiavi, utilizza per esempio gli oblò delle lavatrici e ci fa delle splendide cose con il decoupage e tantissime cose. Questo è il laboratorio che avete interno? Il laboratorio accanto a questo negozio. Tutto quello che viene scartato, le cose, ma soprattutto le donne, soprattutto le persone, se noi le riprendiamo in mano, riusciamo a vederne la bellezza che è nascosta e riusciamo a metterle al posto giusto, ritirano fuori tutta la loro fantasia, la loro capacità, ma soprattutto la loro dignità. Perché la vostra, sorella, spieghiamolo, è una comunità che accoglie persone con problemi psichici. Noi abbiamo 14 ragazze, anche giovani e donne, con problemi psichici abbastanza gravi. E vengono, per così dire, impiegate nell'attività. Sì, e questo è stato il primo motivo per cui noi abbiamo incominciato questa attività, per dare loro un lavoro, un impegno che fosse anche secondo i loro desideri, il loro gradimento. Che tipo di clientela avete? Chi viene a comprare da voi? Inizialmente venivano i rom, venivano gli extracomunitari, ora vengono persone con macchine, anche con Mercedes, io ho visto. Quindi vengono tutti. Sorella, possiamo pensare per il futuro a una catena di outlet della solidarietà? Beh, insomma, per noi non lo so se è possibile, però ci potrebbero essere tante altre suore o tante altre istituzioni che fanno la stessa cosa. Guardi che questo, oltre ad essere un aiuto per le nostre ragazze, un aiuto per le missioni, è un aiuto per la gente di qua. Grazie a Suor Paola Collotto per essere stata con noi. Grazie. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a San Francisco su consumo critico e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, buongiorno, bentornata, che cosa ci racconti? Buongiorno, sentite questa, si chiama TV Bigun ed è un telecomando, ma non un telecomando qualsiasi. Ha dimensioni ridotte, tanto che può essere comodamente portato in tasca e ha un solo tasto, quello di on-off, con cui può spegnere tutte le televisioni presenti nel raggio di 6-15 metri. E non solo quelle nelle nostre case, ma tutte quelle disseminate nei luoghi pubblici come bar, ristoranti, aeroporti. Ogni volta che vogliamo, ogni volta che ne siamo infastiditi o anche per puro divertimento. Come trasformare un piccolo gesto quotidiano in un gesto rivoluzionario, verrebbe da dire. E sì, perché questo telecomando dà a chi lo usa la possibilità di scegliere quando vedere e non cosa. Il messaggio che Mitch Altman, che l'ha inventato, vuole dare è molto chiaro. Accendere o spegnere la TV è di fatto una scelta. Il suo è un invito a guardare meno televisione o comunque nella giusta quantità e qualità e a utilizzare il nostro prezioso tempo per fare quello che ci piace, coltivare le nostre passioni, ad esempio. Grazie Alessia. Patrizia, periodi di crisi e di frenata dei consumi, quale quello che stiamo attraversando, sono terreno fertile per le istanze etiche, critiche, in senso lato, sono anche forse un momento prezioso di riflessione. Sì, è possibile che le associazioni e i movimenti che promuovono un'etica sostenibile nei consumi diventino sempre più importanti, sempre più un riferimento per i consumatori e capaci di orientare in futuro i comportamenti e le scelte di consumo tanto quanto il mondo della produzione. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Vi aspetto ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.